Letture di Radio 24. Ogni volta che qualcuno invoca maggiori controlli alle frontiere o si lamenta per la crescita esponenziale di furti e stupri commessi da extracomunitari e quasi sempre impuniti, si parla di pericolo populismo. Ma chi ha visto la serie televisiva 1993 con la sua celebrazione dei giudici di Tangentopoli può rendersi facilmente conto che la tanto vituperata deriva populista è nata proprio con il facile giustizialismo di Mani Pulite, come commenta Pierluigi Battista in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. Nella serie televisiva 1993, scrive Battista, ci sono sempre a far da sfondo, come una colonna sonora della furia vendicativa, le folle arrabbiate, urlanti, o che idolatrano l'angelo vendicatore purché abbia indosso la toga del magistrato che sbatte in galera i potenti della politica. Le folle che si eccitano alla vista del duro di Pietro, le folle che sperimentano le prove del linciaggio di Bettino Craxi gettando monetine e berciando slogan spietati contro il leader caduto in disgrazia, le folle che non si ammorbidiscono nemmeno davanti alla catena di suicidi che 1993 raffigura con grande realismo, ricordando che quella rivoluzione giudiziaria, come tutte le rivoluzioni cruente, non fu un pranzo di gala, ma un dramma con molte vittime e molte ghigliottine. L'anno del terrore, come è stato definito nel titolo di un libro di Mattia Feltri. Oggi, che non sappiamo decifrare le cose e che diamo nomi arbitrari a tutto ciò che non sappiamo afferrare, ci arrovegliamo attorno alla sindrome populista. Ecco, ma se il populismo antipolitico, con il cappio da agitare e l'ex potente da umiliare, avesse celebrato i suoi fasti nel biennio da molti esaltato 92-93? Se chi oggi deplora il populismo giustizialista e manettaro ne avesse cavalcato l'onda in tempi non sospetti, se ne avesse fatto parte un po' più di 20 anni fa, esaltandolo, aizzandolo, non dovrebbe forse fare i conti seriamente con la propria storia, la propria biografia, la propria ipocrisia anche? L'idea che in politica gli indagati siano già condannati si forma lì, nel biennio ancora oggi celebrato come l'epopea di Mani Pulite, che l'avviso di garanzia sia motivo sufficiente per farsi mettere all'angolo, che le folle abbiano sempre ragione, che ora sono le folle dei social scatenati, ma che allora erano quelle del popolo del fax. Ecco, il popolo populista all'opera, infuriato contro tutti, voglioso di giustizia sommaria, di punizioni esemplari, di patiboli. Che noia questo garantismo formalista. Quando è nato questo populismo rabbioso e crudele? Oggi molti lamentano questa furia giustizialista che vuole i tribunali in piazza. Ma quanti dello stesso schieramento politico che oggi si sente nel mirino non dissero una parola sulla folla forcaiola che nel 93 massacrava i nemici? Quello che avete ascoltato era l'editoriale di Pierluigi Battista «Il populismo di oggi è quello del 1993» dal Corriere della Sera del 29 maggio. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Letture di Radio 24. Introdotta nel 2003 e diventata obbligatoria a partire dall'anno scolastico 2015-2016, l'alternanza scuola-lavoro prevede un percorso formativo presso le imprese, con lo scopo di fare acquisire agli studenti una serie di competenze che dovrebbero facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro. Ma molti studenti non sanno ancora cosa sia, e poche aziende si sono fatte avanti, commenta Salvo Intravaia sul Venerdì di Repubblica, che poi scrive... Dopo 2 anni, l'alternanza scuola-lavoro è su una strada ancora in salita. Lo si capisce dai numeri del rapporto del MIUR e anche dalle parole del sottosegretario Gabriele Toccafondi, che ha la delega su questo importante pezzo della riforma della buona scuola. Nell'anno scolastico 2015-2016, il 10% circa dei ragazzi del terzo anno non ha svolto alcuna attività e solo il 36% dei soggetti con cui le scuole hanno effettuato le attività sono imprese. Il resto sono enti locali, musei, enti no profit, spiega Toccafondi. L'alternanza scuola-lavoro è diventata obbligatoria dall'anno scolastico 2015-2016 per circa 500.000 di studenti del terzo anno delle superiori. Quest'anno è toccato anche ai ragazzi del quarto anno e il prossimo anno sarà la volta del quinto. I ragazzi devono svolgere 200 ore di attività, se liceali, o 400 se iscritti nei percorsi tecnici e professionali nell'ultimo triennio. In genere, per evitare di sottrarre troppe ore di studio mattutino o pomeridiano, le scuole hanno spalmato il monte ore complessivo in 3 anni, ma non tutte. Il 10% degli studenti dell'anno scorso dovrà svolgerle in 2 soli anni. Le aziende, continua Toccafondi, hanno aderito in misure inferiori alle aspettative. O ci mettiamo in testa che il percorso deve essere vero, oppure è solo un esercizio di stile. Dobbiamo fare tutti di più, altrimenti il prossimo anno sarà difficile aprire l'alternanza a 1,5 milioni di studenti. Un chiaro appello a quelle imprese, 2 su 3, che non hanno ancora mostrato interesse per la novità. Sulla Repubblica del 30 maggio, Intravaia torna sull'argomento alla luce dei risultati di un'inchiesta presentata martedì scorso e portata avanti dall'Unione degli Studenti su un campione di 15.000 ragazzi che frequentano le scuole superiori di 9 regioni italiane. Secondo il monitoraggio, scrive Intravaia, il 57% degli studenti intervistati ha partecipato a percorsi di alternanza scuola-lavoro non inerenti al proprio percorso di studi, e 4 su 10 ammettono di essere caduti in situazioni in cui sono stati negati loro diritti, come quello di essere seguiti da un tutor o di non essere stati messi nelle condizioni di studiare. Se negli istituti professionali l'alternanza sembra la logica conseguenza del percorso di studi, per i licei trovare attività da far svolgere ai propri alunni non è stato facile, anche perché le aziende non hanno risposto con entusiasmo alla chiamata del MIUR. Più di un terzo dei ragazzi interpellati, il 38%, dichiara di aver sostenuto spese per frequentare le ore di alternanza. In Sardegna o nel Molise, spiegano dall'Unione degli Studenti, per mancanza di un tessuto produttivo sul territorio in grado di sopperire alla mole di studenti, le scuole si sono trovate costrette a far spostare gli alunni dalla regione, chiedendo a questi ultimi di sopperire alle spese per lo spostamento, con somme che hanno raggiunto i 300-400 euro. Il tutto per attività che nell'87% dei casi sono state calate dall'alto senza alcun coinvolgimento dei diretti interessati. Al Pacinotti di Taranto le studentesse e gli studenti hanno portato avanti il proprio percorso di alternanza scuola-lavoro all'ILVA, industria siderurgica famosa sul territorio per le gravi responsabilità di inquinamento ambientale, si legge nel dossier. E per seguire attività come quella che ha visto centinaia di studenti impegnati a prendere ordinazioni in una nota catena che vende panini con hamburger o impegnati a fare esperienza in una notissima catena di abbigliamento spagnola, i ragazzi hanno tralasciato lo studio delle materie scolastiche, sia di mattina sia nel pomeriggio. A confessarlo, il 57% dei 15.000 entrati nel nuovo obbligo e per i quali il sindacato degli studenti spinge per uno statuto a favore degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Questo era l'articolo di Salvo Intravaia, Alternanza scuola-lavoro, 2 anni deludenti, il 57% degli studenti confessa non funziona, dalla Repubblica del 30 maggio. Della musica classica, i direttori d'orchestra sono quelli che godono della maggiore popolarità, dopo i cantanti d'opera. Ma nello stesso tempo sono anche i musicisti meno compresi e meno apprezzati, e periodicamente c'è chi si domanda se siano davvero indispensabili. Scrive Andrew Green in un articolo pubblicato sull'ultimo numero di BBC Music Magazine, dove ricostruisce l'evoluzione del ruolo del direttore d'orchestra nel corso dei secoli. L'uso di indicazioni fatte con le mani, chironomia, per dirigere gruppi vocali risale ai primi secoli avanti Cristo. Il maggior numero di reperti scritti o disegnati di chironomia, però, riguarda le esecuzioni corali del XV secolo, come quelle che avvenivano, ad esempio, nella Cappella Sistina. il direttore del coro poteva operare in tandem con un singolo corista che a sua volta passava la battuta agli altri. Mano a mano che i concerti pubblici secolari si diffusero in Europa nel XVIII secolo, cambiarono anche le dimensioni e la natura dei gruppi strumentali. Questi richiedevano un maggior numero di indicazioni di battuta, sebbene alcuni musicisti prendessero questo come un affronto verso la loro competenza musicale. Di solito questo ruolo veniva svolto dal primo violinista o dal pianista, che davano indicazioni con le braccia e con le mani, a volte anche con i piedi, e nello stesso tempo continuavano a suonare il loro strumento. Con l'arrivo di Beethoven e dei compositori romantici del XIX secolo, la musica divenne più complessa e dirigere un'orchestra dal pianoforte si rivelava poco pratico, dato che c'era un numero sempre maggiore di indicazioni da fornire ai musicisti in termini di dettagli tecnici, di stile, di energia. La consapevolezza che la nuova musica richiedeva un lavoro di interpretazione divenne un ulteriore strumento per giustificare la presenza di un direttore d'orchestra. Nei primi tempi i direttori davano le spalle al pubblico e a volte dirigevano da seduti. Lo sviluppo del ruolo e dell'importanza del direttore d'orchestra è un fenomeno del XX secolo, nato soprattutto sull'onda della crescente attività concertistica internazionale, dello sviluppo dell'industria discografica e delle maggiori opportunità di viaggiare. Siamo abituati all'idea che i moderni direttori d'orchestra dettino le specifiche per un'interpretazione personale di un'opera, ma ironicamente oggi è molto più difficile prendersi delle libertà interpretative rispetto al XIX secolo. Molto prima della comparsa dei direttori d'orchestra era universalmente riconosciuto che qualche forma di movimento del braccio contribuisse a precisare il ritmo delle battute durante l'esecuzione e i precursori della moderna bacchetta potevano essere dei bastoni o addirittura dei fogli arrotolati. Si facevano anche a bastoncini che venivano usati per velocizzare i primi cori. L'uso di un prototipo di bacchetta fu sperimentato all'Opéra di Parigi nel XVII secolo come sistema per coordinare i ballerini, i cantanti e l'orchestra. Ma si trattò di esempi isolati e solo dal 1820 iniziò a diffondersi l'abitudine di usare bacchette per dirigere l'orchestra. Queste bacchette erano solitamente degli attrezzi di legno di forma conica e sul fondo c'era un'incisione con scritto manico. Con il tempo divennero più lunghi e appuntiti, fatti di ebano o di legno colorato. Oggi troviamo anche bacchette in vetroresina e in fibra di carbonio. I compositori direttori d'orchestra del XIX secolo contribuirono significativamente a definire la magia del maestro. Mendelssohn, ad esempio, ma soprattutto Wagner e Berlioz scrissero importanti saggi sull'arte della direzione d'orchestra. Nel corso del XIX secolo divenne sempre più evidente che il ruolo del direttore richiedeva un livello di talento e tecnica equiparabile perlomeno a quello dei solisti. Nacquero quindi i primi direttori d'orchestra non compositori, divisi tra quelli che privilegiavano una gestualità drammatica e altri che preferivano invece un approccio più sobrio. Nel XX secolo il potere di creare il fascino del maestro si trasferì nell'industria discografica. Alla fine degli anni 70, André Previn partecipò a un programma televisivo dove si esaminava il ruolo del direttore d'orchestra. Iniziò a dirigere la London Symphony Orchestra e poi si sedette in mezzo al pubblico in attesa che tutto precipitasse. Ma questo non avvenne e fu allora che si cominciò a mettere in discussione l'idea che un'orchestra avesse bisogno di essere diretta da qualcuno. Il più famoso e duraturo esempio di orchestra priva del direttore è quello dell'orchestra sovietica Persifarms, fondata nel 1922. L'idea che stava alla base di quella scelta era dimostrare che in una società comunista priva di gerarchie, la posizione del direttore era ridondante. L'idea di suonare senza un direttore fu portata avanti da diverse orchestre da camera, come la Prague Chamber Orchestra, l'Orpheus Chamber Orchestra, l'Australian Chamber Orchestra o la statunitense New Century Chamber Orchestra. L'aspetto negativo di queste orchestre è la necessità di decidere tutti i dettagli durante le prove. Il principale vantaggio, invece, è la possibilità di fare musica in modo spontaneo, quasi elettrico, dato che ogni musicista dà la carica a quello che gli sta vicino. Ed è anche uno spettacolo bello da vedersi. Questo vuol dire che l'era dei grandi direttori d'orchestra è arrivata alla fine? Provate a chiederlo ai direttori stessi. Avete ascoltato l'articolo di Andrew Green, Una breve storia della direzione d'orchestra, dal numero di maggio del mensile BBC Music Magazine. Quando sente una bella canzone che non conosce, l'uomo moderno può sfoderare il suo smartphone e individuarla in un istante. Basta un'app, come Shazam o SoundHound, per farlo. Ora, grazie all'applicazione Lens di Pinterest, si può fare la stessa cosa con i piatti. L'uomo moderno, non avendo ben chiaro se ciò che ha davanti è un piatto di rigatoni al pesto rosso o un piatto di pennette al sugo, anziché basarsi sul buon senso, può chiedere allo smartphone. Questo attingerà l'immenso archivio di piatti e cibi pronti, fotografati e postati dagli utenti. Li confronterà tutti e 15 miliardi e darà il responso. Oltre alla dicitura, ci saranno anche gli ingredienti e la ricetta. Non è solo una questione di palati fini o chef in erba. Spesso i piatti sconosciuti, specie quelli che appartengono a tradizioni culinarie diverse dalla propria, contengono anche in piccole quantità allergeni in grado di rovinare il pasto, o peggio, la vacanza, e nei casi più gravi la salute di chi mangia. Può essere di aiuto anche per chi si attiene a particolari forme di restrizione alimentare, vegetariano, vegano, senza glutine, paleo. Insomma, tutto quel lavorare gratis fatto dagli utenti che cucinavano, fotografavano e postavano piatti di cibi di ogni tipo, alla fine ha trovato un suo sbocco e un modo per essere in via indiretta monetizzato. Ma mica da loro, da Pinterest. E, in linea generale, da tutti gli altri social che faranno la stessa cosa. Complimenti! E questo era l'articolo di LinkPop. Vedere un piatto e scoprirne la ricetta. Ecco l'app che funziona come Shazam. Pubblicato il 31 maggio sul sito L'Inchiesta.